chiaro che obbedisco. Sto sulla strada buona, tu al massimo sul ciglio. Lo stile di ste dive equivale ad un mio sbadiglio. Stronza come Anna Wintour, ho bocche da sfamare. Stai parlando con il capo, non è un modo di fare. Occhiali neri addosso, a meno che non è un affare. Come Anna Wintour, faccio un bel tour, un win tour. Non sono come te che dici ma non fai fai. Vieni vidi vici ma lo stile non l'avrai mai. Vuoi una mano ma al massimo ti do un high five. Alza il volume, il high five, poi bye bye. La dedico a loro, ad ogni diva e le regine al lavoro. La regola è solo, fai la signorina, ma pensa come un uomo, smalto in alto, io non freno. Essere una diva è lavoro a tempo pieno, favolosa, niente meno. Essere una diva è un lavoro a tempo pieno. Poi bye bye. Il mio ego è il portaborse, capelli al loro posto. Regina delle stronze, tu non liberare il mostro. Liberami un posto, puoi prendermi il cappotto. Il tuo stile è scontato come i saldi ad agosto. Non sono come te che dici ma non fai fai. Vieni vidi vici ma lo stile non l'avrai mai. Vuoi una mano ma al massimo ti do un high five. Alza il volume, il high five, poi bye bye. La dedico a loro, ad ogni diva e le regine al lavoro. La regola è solo, fai la signorina, ma pensa come un uomo, smalto in alto, io non freno. Essere una diva è un lavoro a tempo pieno, favolosa, niente meno. Essere una diva è un lavoro a tempo pieno.